9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, Oscar Giannino, venerdì 2 ottobre. Iniziamo a introdurre questo tema, ma ci arriviamo per gradi. Oggi parliamo di un malato, questo malato è l'Italia. Diciamo che la sua patologia è un po' complessa, un vasto accumulo di sostanze che impediscono nel suo sistema arterioso e venoso efficienza del suo metabolismo, ascensore sociale che non funziona, arteriosclerosi un po' forte e precoce invecchiamento, diciamo così, dei suoi tessuti, non solo delle sue funzioni fisiologiche meno efficienti, ma anche dei suoi tessuti connettivi intorno al cervello. E se questa è la diagnosi, vediamo una cura articolata in 10 punti, di cui iniziamo a vedere l'obiettivo numero uno di questa cura. Il decalogo. 1. Disarmare le lobby. Contro il potere delle lobby serve disciplinare la libertà d'associazione, rendendo pubblici i nomi degli iscritti, stabilendo un regime di incompatibilità, demolendo la regola della cooptazione. E serve inoltre una legge sui gruppi di pressione, così come serve azzerare con un colpo di spugna gli ordini professionali. Acci picchia, e andiamo immediatamente al punto numero 2 di questa cura per il paziente Italia. 2. Rompere l'oligarchia di partiti e sindacati. Partiti e sindacati nuotano in una zona franca del diritto. Nessuna regola giuridica ne garantisce la democrazia interna. Serve perciò una legge contro il potere delle loro oligarchie e per converso serve togliere i vincoli di legge per candidarsi alle elezioni. Vedremo gli altri punti scanditi nell'arco della trasmissione. Attenzione, questa non è Radio Londra, non stiamo parlando da un paese occupato, ma invece, adesso inizio a svelarvi come in una cipolla di cui inizio a levare la parte esterna, in realtà noi stiamo parlando di un decalogo che è la parte finale, la parte sintetica di un volume che esce in questi giorni e abbiamo con noi l'autore del libro e alcuni ospiti ai quali sottoporremo la cura, appunto, proposta dall'autore del libro. Chi è l'autore del libro? È Michele Ainis, che insegna istituzione di diritto pubblico all'Università di Roma 3 e il libro, appunto, si chiama La cura, è edito da Chiare Lettere. Buongiorno professor Ainis. Buongiorno. Ieri c'era una prima presentazione sulla stampa, un'intera pagina dal titolo "Se volete buone leggi, bruciate quelle vecchie". Nell'Italia paralizzata da nepotismi e corporativismi, una terapia d'urto con 10 regole per ricominciare. E abbiamo invitato ai nostri microfoni anche esponenti di punti di vista culturali ed esperienze professionali molto diverse. Uno è Giorgio Cremaschi, che saluto con particolare calore, il segretario nazionale della FIOM. Buongiorno Cremaschi. Buongiorno, buongiorno. E un altro è il professor Tommaso Edoardo Frosini, che insegna anche lui diritto pubblico comparato presso l'Università di Napoli. Buongiorno professor Frosini. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, professor Ainis, adesso procediamo con gli altri punti nell'arco della trasmissione. Diciamo che è una specie di manifesto meritocratico e contemporaneamente a me sembra ispirato da un forte ottimismo che sia possibile praticare attraverso il diritto, attraverso la via di nuove norme, su uno scossone violento, una specie di girapagina dell'Italia. Mi spiega che cosa la spinge a essere in realtà, siccome la conosco, so con quanta passione si batte su battaglie minoritarie, ma cosa la spinge a essere ancora così ottimista che con la legge si possa fare, insomma, punti come abbiamo visto 1 e 2 di una certa, ecco, vastità, per così dire? Non è un po' eccessivo? Sì, era un programma vasto, chi lo disse De Gaulle, quello di sconfiggere gli inetti e di cacciarli via. Però io credo che, diciamo, le regole, poi noi italiani siamo molto bravi a eluderle, a violarle, ma il brodo giuridico in cui nuotiamo una sua valenza ce l'ha e avremmo bisogno di recuperare in parte una lezione che sta ancora scolpita nelle tavole costituzionali. Basta pensare allo strumento del concorso che, ove non fosse di nuovo truccato e distorto, insomma, serviva per selezionare i migliori e non i figli di papà o i raccomandati di turno. E in parte, secondo me, c'è una lezione che ci arriva dall'antica Grecia e che in qualche modo potremmo rispolverare, perché i greci avevano una concezione demoniaca del potere e provarono a spuntargli le unghie attraverso una serie di esperienti che erano la durata breve delle cariche, la rotazione delle cariche, è una politica senza professionisti della politica. Non so fino a che punto questo sia possibile in società complesse come sono quelle in cui viviamo. Certo però è che, diciamo, vedendo delle facce immarcescibili, qui non è questione di destra o di sinistra, che nella società politica, nella società civile, insomma, sono inchiodate per decenni alla poltrona, quando, solo per parlare di politica, all'estero succede che Tony Blair, piuttosto che Aznar, piuttosto che lo stesso Gorbaciov, insomma, a 50 anni abbandonano la scena politica dopo una sconfitta elettorale. Qui da noi non succede, quindi è possibile, se succede altrove, potrebbe succedere anche da noi. Potrebbe, però la questione su cui la interrompo è se si può pensare che lo si debba fare per legge, o se il problema sia un pochino, insomma, più ampio, parecchio più ampio. So che anche lei pensa che è più ampio, però la questione è vedere come si può fare tutto questo, oppure tutto questo poi è un programma alternativo in nome di qualche cos'altro. Iniziamo a vedere due altri punti del decalogo. Il punto numero 5. 6. Garantire l'equità dei concorsi. Contro i favoritismi. Contro gli abusi che inquinano assunzioni e promozioni dei dipendenti pubblici, servono procedure garantite dal sorteggio dei commissari di concorso. Ora andiamo al punto numero 9. Vediamo se questa volta dalla regia però beccano il numero giusto. 9. Impedire il governo degli inetti. L'ignoranza al potere si combatte reclamando un titolo di studio per chi si presenta a un'elezione e reclamando inoltre precise competenze per chi ricopre ruoli di governo. Ecco, allora io adesso inizio a fare delle domande un po' provocatorie. Inizio con Giorgio Cremaschi. Senta, io stesso sono per il merito, per la qualità eccetera, però certe volte mi viene un sospetto quando inizio a sentire, non voglio parlare adesso del professor Rainis, poi farò a lui la domanda, però siccome vedo che oramai nella società italiana una parte, diciamo così, di società italiana, non è il professor Rainis, ma però che ha esercitato potere forte, anche se non magari eletto alle elezioni, che inizia a parlare di merito, di selezionare la classe dirigente, cambiare la classe dirigente, quando io la identifico con il potere, faccio un nome a caso, guardi, le faccio il nome senza nessun problema, parlo per esempio dell'ex presidente di Confindustria Montezemolo, e mi vedo che inizia a battere l'Italia parlando del merito, una scuola seria, e bisogna andare avanti chi ha fatto le imprese. Lui, insomma, è stato la testa d'impresa, non ne ha mai fatto nemmeno una. Mi viene il sospetto, per me che la penso un po' così. Ma non è Cremaschi che questi parlano di merito, merito, e dicono semplicemente togli tu che mi ci metto io, ma con gli stessi criteri, gliela metto proprio sul piatto. Cioè, questo dibattito sul merito non è un pochino artefatto? Lo dico sapendo che lei la pensa diversamente da me. No, io la ringrazio in questo caso per quello che si chiama linguaggio calcistico, un assist. No, io sono assolutamente d'accordo con lei. Poi vorrei dopo dire qualcosa, anche in realtà sono molto d'accordo anche con molte delle proposte che fa il professor Assis. Voglio dire però che sì, oggi il merito, vuol dire una cosa, se davvero fosse premiato il merito, il 90% delle persone potenti oggi in Italia, essendo nel merito, non sarebbero lì. Non sarebbero lì. Se si parla di merito, si intende un'altra cosa, si intende fedeltà. Fedeltà non è la stessa cosa, però oggi è diventato quasi equivalente. Guardi, glielo dico anche dalla mia esperienza sindacale in questi giorni, perché guardi, in questo periodo, come c'è crisi, si stanno avvicinando al sindacato, anche un sindacato un po' radicale come il nostro, si stanno avvicinando tecnici, impiegati, ricercatori di aziende informatiche, che per la prima volta incontrano il sindacato, hanno vissuto fino adesso nel mondo cosiddetto dell'impresa, e ci raccontano che il mondo dell'impresa, anche dell'impresa privata, non solo di quella come sarebbe più ovvio dell'impresa pubblica, è un mondo dove i seri, prima ci sono altri seri, la stupia, la fedeltà. Io la devo un secondo fermare, perché tra le tante difetti dell'Italia c'è il fatto che con la telefonia cellulare ancora non riusciamo ad ascoltarci, perché praticamente non si riesce una sola parola su due neanche. Un secondo solo, vediamo la qualità del collegamento, se riusciamo a ripristinarla. Mi sposto al professor Frosini. Avete capito, insomma, che Cremaschi qualche critica di fondo ce l'ha. Non dissente sulla diagnosi e sulla cura del professor Rainis, però caveat, perché attenzione che a volte a parlare di merito sono semplicemente, non è il caso del professor Ainis, ma insomma in Italia c'è una campagna animata per dire cambiamo equilibri politici in nome della tecnocrazia. Allora, professor Frosini, gli faccio una domanda invece da un punto di vista diverso. Siccome io sono anche un appassionato elitista, cioè stiamo parlando di una grande scuola di scienza politica che all'inizio del secolo scorso ha prodotto nomi come Mosca, Pareto, insomma una cosa molto rilevante, nata in Italia per fortuna, quando l'Italia era una culla di studi che ancora faceva testo a livello mondiale. Detto questo, perché confondere la necessità di mettere più merito nella scuola, nell'università, eccetera, eccetera, quando poi tutti dall'altra parte vogliono invece l'eguaglianza, vogliono la scuola e l'università solo per fare cattedre e così via? È giusto confondere questo, la necessità di levare il troppo egualitarismo, con un po' di sano elitismo, che poi è una cosa che in Italia invece non si può mai pronunciare? Cioè, si può ancora essere elitisti nel nostro paese, o è semplicemente parlare di merito e dire cambiamo le norme, cambiamo i concorsi, come fa un po' il professor Ainis? Poi arriveremo alla sua autodifesa, perché sennò dice ma come mi avete invitato a parlare del mio libro, adesso mi state massacrando. No, ma parliamo da punti di vista diversi. Si può essere elitisti senza per questo essere montezemoliani? Ma devo dire che anch'io, come Cremaschi, diciamo, condivido le diagnosi di Michele Ainis, che saluto. Però effettivamente, come dire, a voler normare tutto si rischia poi di creare una sorta di gabbia, cioè l'eccesso di normazione che dovrebbe in qualche modo guidare la struttura di questo decalogo, cioè rifare completamente tutta la legislazione, si rischia un po' di vincolare anche l'agire spontaneo dell'individuo. Lei ha citato giustamente Mosca e Pareto, a me piace citare in questo senso anche uno studioso italiano famoso all'estero ma sconosciuto ancora in Italia, Bruno Leone, sì. Il quale parlava del diritto libero, cioè la necessità di vincolare in maniera molto limitata attraverso la legislazione l'agire dell'individuo. Ora, il merito è un qualche cosa, secondo me, che appartiene all'individuo in quanto tale, e non so fino a che punto possa essere regolamentato per legge. Per esempio, Michele Ainis nel suo decalogo, e lo citavate voi dalla trasmissione al punto 6, sostiene la necessità di garantire l'equità dei concorsi. Benissimo, e lo fa per il tramite anche di una selezione che dovrebbe passare attraverso il sorteggio dei commissari di concorso. Ebbene, proprio con riferimento all'università, quindi il caso che lei citava, la legge Gelmini prevede adesso il sorteggio dei commissari, cioè un modo, diciamo, che dovrebbe consentire appunto di evitare, diciamo, le note situazioni in cui... Ai, professor Frosini, lei si candida all'impopolarità, mi difende la Gelmini, però proseguo il ragionamento e poi dobbiamo dare la parola a Ainis. Di non essere attaccato come il professor Israel, che per aver difeso la riforma Gelmini della scuola poi ha dovuto subire anche dei preoccupanti, diciamo, attacchi da parte di frange estreme. Comunque, su questo punto mi sento pienamente, diciamo, legittimato a difendere la legge della Gelmini, e immagino anche il professor Ainis, sulla base di ciò che scrive nel suo decalogo. Nel momento in cui si rompe una crosta che sicuramente ha fortemente condizionato la selezione universitaria, cioè quella dei concorsi guidati da grandi lobby accademiche, con il sorteggio, come dire, questo non sarà più possibile pilotarlo, diciamo così. Allora, professor Ainis, avrà capito che per animare e incuriosire i nostri ascoltatori sul suo libro, lo ripeto, pubblicato da Chiare Lettere, La Cura, sono 183 pagine, abbiamo innestato tutti i temi che lei tratta nel decalogo, cioè da una parte più legalità, dall'altra più merito, dall'altra annullare i privilegi della nascita, neutralizzare i conflitti di interesse, favorire il ricambio della classe dirigente, impedire il governo degli inetti, però l'abbiamo innestato nell'ambito del dibattito in cui tutto questo poi si innesta. Ed è un dibattito, ripeto, caratterizzato dal fatto che alcuni di questi temi sembrano essere il rumore di fondo di uno schieramento alternativo, una cosa che dice ci vogliono i tecnocrati, ci vogliono... Naturalmente lei il libro non l'ha scritto per questo, però stia a questa specie di recita che stiamo facendo, che come tutte le recite è un po' approssimativa, ha qualche forzatura, però lei capisce. Le faccio un esempio concreto. Io oggi sfoglio lo stesso quotidiano che ieri ha fatto la presentazione del suo libro, dove c'è una cosa contro i figli di. Allora, io guardi, ho una memoria assoluta, reverenziale verso il papà dell'attuale direttore della Stampa, però guardi che anche in quel caso è un figlio di, E allora mi chiedo se poi questi valori vengono propalati da chi è classe dirigente già, esercita potere e contemporaneamente dice siete voi altri che dovete invece abbracciare il merito, a me qualche dubbio viene. Scusi il paradosso. No, no, e poi va bene così, io non ho un avvocato a portata di mano, quindi mi tocca difendermi da solo. Non credo serva un avvocato, né a Mario Calabresi, né all'avvocato Montezemolo che dovete fare. Peraltro il papà di Calabresi non faceva il giornalista. Ora però, ecco, se parliamo delle élite che reclamano più meritocrazia, evidentemente io non farei tanti diciamo discorsi cercando retropensieri e secondi fini. Forse c'è una consapevolezza, ed è bene che ci sia anche nelle nostre élite, che un sistema che non premia i meriti è un sistema inefficiente, in cui che cioè manda nelle postazioni così di governo generale della società delle persone che poi non riescono a far funzionare bene la macchina. E il problema delle nostre élite è appunto la selezione dell'élite. Poi è evidente che le élite devono avere un ruolo determinante in ogni società, ma quando noi leggiamo che il 40% degli ingegneri è figlio di ingegneri, e questo vale per i medici, vale per gli architetti e quant'altro, e quando noi sappiamo, e lo sappiamo per esperienza diffusa, che se non fai parte di una cordata che ti sa proteggere difficilmente farai un pezzo di strada, allora qui non si tratta, vorrei dire all'amico Tommaso, di chiedere una iniezione di regole ulteriori, ne abbiamo già troppe sul groppone, ma di cambiare quelle che regolano la nostra vita. 4. Annullare i privilegi della nascita. Per superare le strettoie del nepotismo, per neutralizzare almeno in parte i privilegi della nascita, servono da un lato le imposte di successione, dall'altro lato una penalità per chi concorra ad ottenere la stessa posizione che hanno già raggiunto i propri genitori. Ecco, Oscar Giannino torna dallo studio, ci stiamo occupando di questo decalogo che sintetizza un po' radicalmente e paradossalmente analisi ben più profonde e più equilibrate di quanto sembri da questa sintesi, ma lo facciamo per lanciare anche in maniera paradossale e più interessante ancora l'analisi e la ricetta di questo volume, La cura, del professor Michele Ainis, che è ospite con noi insieme a Giorgio Cremaschi e al professor Frosini. Questo quarto punto, annullare i privilegi della nascita, io ho l'obbligo di dire, sì, varrà per i professionisti che sono notai perché figli di notai, sono ingegneri perché figli di ingegneri e così via. Tra l'altro reazione dei professionisti, perché molti di loro dicono, beh, attenzione che ci facciamo il nostro cursus prima di avere il titolo. Però ho l'obbligo di dire che se il mondo pubblico non riconosce il merito, se non riconosce il merito, abbiamo già visto, tentiamo di fare i concorsi in università fondati sul merito, cioè, il mondo privato non è molto diverso, perché questa, che pure è la radio di Confindustria, io benedico la libertà, ma la libertà mi spinge a essere obiettivo. Ebbene, guardate che nel vasto panorama comparato degli imprenditori dei paesi avanzati, il nostro paese è quello che sul totale degli imprenditori è quello che vanta il minor numero di imprenditori con istruzione universitaria e post-universitaria. L'istruzione post-universitaria tra gli imprenditori italiani è a percentuale di 0,06%. Difficile immaginare, con un capitale umano così formato, sto parlando degli stessi imprenditori che fanno sempre lezioni sul fatto che bisogna formare il capitale umano, quello dei dipendenti, ma quando si tratta del loro, ecco, gli imprenditori italiani, mi dispiace dirlo, lo dicono le graduatorie, sono molto, molto, molto, molto più sommari di quelli degli altri paesi. Allora, paradosso. Siamo sempre lì. Chi ci invita alla rivoluzione del merito ad annullare i privilegi di nascita, l'impresa la trova quasi sempre ereditata. Tanti la fanno nuova, la famosa sete della piccola impresa italiana, ma la maggior parte se la trova ereditata. Allora, come si fa a credere davvero a questa cosa? Cremaschi, lei che dice? Ma sì, guardi, non so se prima si è sentito quello che dicevo perché ho capito che c'erano problemi, però guardi, io sono convinto che dico l'iniezione di democrazia radicale, mi pare, che propone il professor Annis come condizione, mi pare, di base per avere un effettivo riconoscimento del merito, mi pare che sia il concetto, poi posso discutere sulle singole misure che io condivido, cioè nel senso che è evidente che nessun potere, questa è la verità, su questo avevano ragione da sempre e hanno ragione da sempre gli antichi greci, nessun potere da solo si autoriforma e nessun potente riconoscerà mai di avere promosso degli imbecilli solo perché gli sono dei fedeli, dirà sempre che ha promosso le persone con maggior merito. Questo è, voglio dire, un elemento dell'umanità. Quindi l'antidoto a questo sono tutte le forme di controllo, di potere, di trasparenza, di intervento dal basso che possono cambiare le cose. Quando questo non c'è nelle varie strutture, nelle varie istituzioni, perché poi ogni qui bisogna andare ovviamente nello specifico, ogni terreno c'è il suo, quando questo viene meno si creano quelli che si chiamano le caste, le quali si autoassolvono dicendo che loro sono quelli che meritano. Ma lei diceva che anche nel sindacato vede cose di questo genere. Guarda, però lì non si è iniziato a capire più niente. Guardi, cioè... io sostengo questo sul sindacato. Noi siamo di fronte oggi in Italia, come credo in molti altri paesi, a una doppia condizione. Da un lato ci sono i lavoratori, lo accennavo prima, che rischiano di essere perseguitati nelle aziende perché si avvicinano al sindacato. Le aziende non hanno piacere di questo perché pensano che se un lavoratore non è sindacalizzato costa meno. Dall'altro però c'è un problema che il lavoratore nel sindacato, i rapporti tra i sindacati non sono fondati su un'autentica democrazia. Non mi ricordo qual era il punto, però io sono assolutamente favorevole, mi pare che sia il secondo. Sì, il secondo. A un fatto che ci sia una legislazione che garantisca, oltre che consideri, non so, il diritto al sindacato, un diritto del lavoratore, non dei sindacati. Esatto. E questo quindi attribuisca, lo dico perché, anche perché ne sono direttamente coinvolto, noi il 9 ottobre facciamo uno sciopero anche per protestare sulla mancanza di democrazia sindacale, uno sciopero che non se lo sta filando nessuno. Diciamo di partisan, domani il 3 ottobre c'è una grande manifestazione del nostro sciopero, non se ne sta occupando nessuno, eppure sono centinaia di migliaia di lavoratori che scenderanno in piazza, segno che evidentemente c'è un problema anche quando si lotta per la democrazia dell'informazione. Però detto questo, chiuso la parentesi un po' polemica, voglio dire, sì, io penso che occorre una legislazione che garantisca che le associazioni agiscono nella democrazia e con democrazia. Per quanto riguarda il sindacato, dico, ci vorrebbe una legge che garantisse la democrazia sindacale, cioè che i sindacati che trattano sono i sindacati che hanno preso più voti dai lavoratori e che rappresentano di più e che i lavoratori e che magari, con quando... la democrazia diretta giudicare l'opera di questi, e magari quando firmano alcune cose particolarmente importanti ci si torna dai lavoratori a chiedere cosa ne pensano. Referendum, e io voglio avere il diritto di essere messo in minoranza dai lavoratori se le mie posizioni sono sbagliate e non invece da giochi di potere tra parti di sindacati e parti delle imprese. Questo è il problema. Credo che se ragioniamo su ogni settore troviamo questo punto. Voglio solo dire una cosa, quanto alcune delle proposte che ho letto nel decalogo del professore sono sicuramente molto molto ambiziose. Ho sentito all'inizio che citava la battuta di De Gaulle, il quale in realtà diceva una cosa più pessimista, perché di fronte a un cartello che si era trovato di fronte, che si avvia gli imbecilli dal governo, disse: programma troppo ambizioso. Quindi è chiaro che bisogna avere un elemento, diciamo così, di cautela e anche forse di ironia rispetto, però non, insomma, c'è dubbio che oggi una ci terapia vuole radicale, ci vuole una dice terapia Cremaschi. Di democrazia radicale, di controllo da parte di chi è fuori dai meccanismi del potere, è la cura iniziale da costruire. Poi discutiamo come. Sentiamo a questo punto due ascoltatori. Innanzitutto Fausto da Roma. Pronto? Prego, signor Fausto, ci dica. Sì, mi ero fermato, stavo ripartendo. Senta un attimo, il discorso è questo. Io all'inizio ho sentito, all'inizio di vari punti che enunciavate oggi, abolizione degli ordini professionali come una delle prime misure. Io questo lo ripeto, di quello è un argomento che non ho mai compreso, come mi sembra un po' una frase che fa il paio con l'abolizione del valore legale dell'ordine di studi. A me mi sembra subito faccio un allarme, abolizione del valore legale è un'altra cosa, io sono favorevole, ma comunque lei di mestiere cosa fa? Io sono un medico, sono iscritto all'Ordine dei Medici. Mi sembra che sia per l'abolizione legale del titolo di studio, sia per l'istituzione all'ordine, tutto al più, cioè non c'è una lobby che fa pressione, che tramanda di figli, di padre in figlio, di qualche prerogativa, assolutamente niente, no? Anzi, fanno pure poco gli ordini, spesso diventa una tassa quasi da pagare. Come vede, sta dicendo che non sono molto utili perché non fanno né deontologia né niente in particolare. Non sono utili e dovrebbe pensarci, diciamo, l'iscritto eventualmente a richiedere un'abolizione, ma non l'abolizione dall'esterno come se fosse una lobby che chissà che cosa trama. Chiarissimo, chiarissimo. Lei difende gli ordini perché dice per alcune professioni, non so se lo faccio per tutte, ma per alcune professioni, soprattutto come il medico, l'ingegnere, quelli che poi fanno fede pubblica, eccetera, eccetera, l'ordine è ancora. E questo è da sempre il classico dibattito rispetto a chi dice gli ordini oramai rappresentano semplicemente delle sopravvivenze del passato, tendenzialmente un po' oligarchiche, come nel punto numero uno di Disarmare le lobby dice il professor Ainis. Poi abbiamo Bruno da Bergamo. Prego, Bruno. Buongiorno. Tre cose, me ne sono venute in mente altre due rispetto a quello che ha detto la signorina. Allora, la prima cosa è la questione del merito. Le proposte che ho sentito sono tutte più o meno condivisibili. Secondo me però per la meritocrazia è inutile fare concorsi, piuttosto sarebbe il caso di responsabilizzare le scelte. Cioè, se io scelgo un candidato sbagliato, poi sia lui che io che l'ho scelto pagheremo delle conseguenze in base poi all'ambito di applicazione. La seconda cosa, un po' la toccata Cremaschi mi pare, che riguarda proprio la modifica di queste regole in base a norme di legge, cioè le leggi le fanno i politici, tutti questi cambiamenti li potrebbero fare solo dei politici tramite le leggi, quindi mi sembra piuttosto ingenuo tutta questa massa di proposte se poi chi deve modificare le regole sono gli stessi che si dovrebbero poi sopportare le conseguenze delle regole stesse. E la terza, se volete, semplicemente una piccola critica in generale anche per gli ospiti, io proporrei di fare interventi un pochino più brevi perché spesso risultano ripetitivi. Benissimo, e questo è un orecchio tirato al conduttore, in realtà non agli ospiti, perché è colpa mia e quindi ho capito il messaggio. Professor Ainis, come si risolve il contrasto tra la necessità di una cura di radicalità dal basso, per così dire, che consenta un'espressione migliore di qualità, merito, eccetera, eccetera, e con la necessità poi di governare democrazie complesse, quindi di sintesi elitaria dall'alto e meccanismi di premio maggioritario, tanto nella rappresentanza politico-parlamentare quanto nei meccanismi di governo di un'università come di un qualunque organo complesso? Ma il punto è introdurre elementi di controllo. Faccio un esempio: se il rettore della mia università o il preside della mia facoltà impazzisse, non c'è uno strumento non c'è la mozione di sfiducia, così come non c'è per i presidenti delle camere e varie altre cariche. Allora, quello è un elemento, così come non esiste il recall, che è un istituto che invece negli Stati Uniti ha che ti consente di revocare l'eletto quando l'eletto tradisca la sua promessa elettorale e quindi il rapporto fiduciario che era instaurato con te che l'hai votato. Quindi introdurre degli elementi di democrazia, l'avete chiamata radicale, va bene, serve forse a rendere più effettiva questa democrazia. Il problema è che dovrebbero farlo, come qualcuno ha detto, gli stessi legislatori che dovrebbero quindi, come dire, tagliarsi le gambe. Noi forse potremmo provare ad azionare però qualcuno di quei pochi, piccoli, modesti strumenti che abbiamo a disposizione, il referendum con i limiti che ha, o l'iniziativa popolare, quantomeno come forma di pressione politica, per cercare di far arrivare sul tavolo di chi decide. E tuttavia gli italiani da molti anni nei confronti del referendum ci fanno disilludere. Io sono stato a mia volta molte volte promotore di referendum, ma lo sono sempre, me ne ero convinto su questo rispetto a questa legge elettorale e così via, però gli italiani poi insomma dimostrano da una parte di volere la radicale critica, dall'altra quando si tratta di impugnare le armi della trasformazione radicale dal basso sono molto molto molto scettici, e mi chiedo se colpa non sia anche molto nostra. 7. Neutralizzare i conflitti di interesse. Per rompere gli interessi coalizzati è necessario dividere con un colpo d'accetta controllati e controllori, vietando ai primi di scegliersi i secondi, abolendo l'autodichia, proibendo o scoraggiando le doppie poltrone. Ecco, un esempio concreto che mi verrebbe di fare, perché voi tutti pensano chiaramente alla politica, Berlusconi, d'accordo, e inevitabilmente il grande problema della politica che divide l'Italia da 15 anni a questa parte, da quando questo politico improprio scende in politica scombinando le attese di chi dice abbiamo sbaragliato il pentapartito e la politica è nostra, e lui in pochi mesi scende in politica da politico improprio e da 15 anni tiene in scacco, ne perde una, ne vince un'altra regolarmente di elezioni, proprio in base a una, diciamo, lettura di questo punto come punto non di emergenza della società italiana. Però quando gli italiani danno ragione nel voto, e allora la questione diventa: siamo noi che abbiamo un'eccessiva sensibilità su questa regola dei conflitti di interesse, oppure vuol dire che l'Italia ai conflitti di interesse non è molto sensibile? Faccio l'esempio: a chi dobbiamo la percentuale così troppo elevata nel sud di trattamenti di finta invalidità, che si diventano da sempre nel sud uno strumento di integrazione del reddito delle famiglie come trasferimento pubblico ordinario? Se uno va a vedere quali sono le modalità per accedere al trattamento di invalidità, scopre che spesso i patronati sindacali, l'abbiamo detto più volte, sono responsabili almeno quanto chi poi nell'organizzazione del potere pubblico alla fine ci mette il timbro sulla loro pratica. Quindi vuol dire che il conflitto di interesse poi purtroppo gli italiani, secondo me, non lo sentono come un enorme problema, tranne che a casa del vicino, perché a casa propria sono sempre pronti un po' a transigere. Lei che pensa, Frosini, di questo argomento? Ma sono d'accordo, credo che effettivamente il conflitto di interessi non sia il problema dei problemi, ben altri sono i problemi, diciamo, sull'agenda politica e sociale di questo paese. Il conflitto di interessi è chiaramente un problema che è scoppiato e, diciamo, si è dilatato sulla base della presenza dell'attuale Presidente del Consiglio, e poi a cascata, diciamo, ha comportato tutta un'altra serie di problemi. Il punto sul quale io magari mi permetto di avanzare una domanda a Michele Ainis, cioè nel suo decalogo non c'è un riferimento al cambiamento della Costituzione. Ritiene che la cura per questo paese possa passare anche attraverso una riforma della Costituzione, in particolare laddove lui esalta giustamente la responsabilità degli eletti, addirittura la possibilità di revocarli, ma quale migliore forma di responsabilità degli eletti sarebbe se venisse da noi introdotta l'elezione diretta del capo del governo? Cioè, facciamo, diciamo, rispondere subito al professor Ainis. Che dice? Un po' di presidenzialismo? Ma perché no, se ci sono poi però dei contropoteri. Volevo però dire, a proposito del conflitto di interessi, io in questo libretto dedicherò forse un rigo al conflitto di Berlusconi, ma diciamo il problema è appunto molto più ampio. L'antitrust a gennaio di quest'anno ci ha raccontato che l'80% di assicurazioni e banche ha nella dirigenza persone con incarichi nei gruppi concorrenti. Potrei continuare con tutti questi numeri che riguardano... Si chiama interlocking, e però io le devo ricordare che lo stesso antitrust è attualmente guidato da un presidente che negli ultimi 2 anni non fa altro, rivolgendosi alla politica, che invocare un articolo della legge istitutiva dell'antitrust, che è quello che consente al governo di sospendere le condizioni generali di concorrenza. Lo ha fatto per CAI, ma non solo per CAI, all'Italia. Lei capisce, mi dà l'esempio di una virtù, e io le dico immediatamente che chi è chiamato a praticarla pratica la virtù opposta. Questo è un problema. E quindi, come vede, ne vedo poco io di conflitto di interesse non praticato anche da chi lo dichiara, non da lei, professor Ainis. Noi la stiamo usando come strumento di autoriflessione collettiva, però lei mi dice l'antitrust, io automaticamente le dico quello che dovrebbe difendere come un solo uomo l'indipendenza della sua autorità dalla politica, dice ai politici: sospendetemi. Ecco, allora a me scappa da ridere, perché dico: aboliamola l'antitrust, torniamo al vecchio ministero che aveva una direzione generale in cui decideva la politica. Cremaschi, sul conflitto di interesse nel sindacato, io faccio sempre l'esempio un po' provocatorio di questa cosa dei trattamenti di finta invalidità del sud, ma come si fa nel sindacato a tentare di evitarlo? Ma guardi, come ho detto prima, con un'iniezione di democrazia e di trasparenza, naturalmente, guardi, sul sud c'è molto da dire, come lei sa meglio di me, è la verità che quei trattamenti di finta invalidità sostituiscono in maniera clientelare un diritto al lavoro e al reddito reddito che tanta gente non ha, quindi poi bisogna sempre discutere della dimensione sociale delle questioni, cioè è evidente che quando i diritti fondamentali non ci sono o vengono sostituiti in alcune regioni, in alcune realtà, da concessioni clientelari, non si cambia solo la condizione delle persone dal punto di vista materiale, ma si cambia anche il loro rapporto, cioè non sono più cittadini, diventano sudditi, diventano clienti. Questo è un paese dove purtroppo, diciamo così, non c'è una vera materiale educazione ad essere cittadini, ma c'è purtroppo in tante condizioni, penso io al mercato del lavoro, il fatto che i giovani oggi devono fare una trafila di anni di precariato prima di avere un posto, quella trafila non è solo ingiusta dal punto di vista materiale, è una trafila ingiusta perché il giovane impara che per avere qualche garanzia in più nel suo posto di lavoro deve imparare ad obbedire, a obbedire anche a cose a proposito stupide, e quindi anche deve anche magari qualche volta deprimere il suo merito. Quindi diciamo così che noi siamo un sistema che sta educando in molti casi, e apparentemente esalta continuamente la democrazia, ma sta educando tanta parte del paese, soprattutto quella più debole, quella più povera, quella più indifesa, ad essere sudditi e non cittadini. Questo vale anche per il sindacato. Dentro il sindacato, ripeto, le regole di fondo sono quelle della democrazia. Bisogna che un sindacato che sbagli possa essere cambiato dai lavoratori con un altro sindacato, e bisogna che gli iscritti a sindacati abbiano la possibilità di controllare tutta la vita dell'organizzazione. Ci vuole una terapia democratica anche per i sindacati. Io penso che ci vorrebbe proprio una legge sulla democrazia sindacale. Però voglio ricordare che quando qualcuno di noi ha proposto questa cosa, anche qui in termini bipartisan, sia il Parlamento, diciamo, governato dal centrodestra, sia il Parlamento governato dal centrosinistra, non ha trovato una maggioranza, perché sia la Confindustria, che si è sempre opposta, è bene ricordarlo, dice: ma come si oppongono? Sì, si oppongono, perché evidentemente preferiscono avere di fronte un sindacato che non ha un consenso veramente democratico, che sarebbe sicuramente più forte, ma avere un sindacato che ha un consenso, diciamo, costruito. Ecco, sia la Confindustria sia parti rilevanti del movimento sindacale si sono sempre opposti a una legge vera sulla democrazia sindacale, che invece io, la mia piccola parte sindacale, sostiene. Ma Cremacchi, vede, io sulla Confindustria non le posso dare ragione, è figlio di una lunga storia in cui se si andava solo a decidere chi era più forte tra i lavoratori, c'eravate solo voi, altri, gli altri c'erano ma contavano meno. È ovvio che nell'equilibrio storico della lunga vicenda italiana dipende dai settori, Bisogna accettare, la diversità. No, ma adesso, bisogna capire che ci adesso sono settori, credo, dove i lavoratori sono più moderati, non c'è, diciamo, dubbio, così, è più radicali, adesso, e la democrazia decide. Ma io devo dire la verità, la penso come lei, cioè adesso io credo che non viviamo più ai tempi di Valletta in cui era necessario fare il sindacato giallo per non farvi occupare la fabbrica, quindi siccome non è più così, io penso che lei abbia assolutamente ragione su questo. Allora, io devo rapidamente chiudere scusandomi col professor Ainis, perché, ripeto, comprate e leggete il suo volume, che è molto più analitico ed equilibrato di questa sintesi paradossale che ne abbiamo fatto, ma ne abbiamo fatto per rivelare meglio le contraddizioni della società italiana. Il volume si chiama La Cura, edizioni Chiare Lettere. Grazie al professor Ainis, a Tommaso Frosini e a Giorgio Cremaschi. Grazie a tutti voi che avete mandato molti messaggi. C'è chi dice che bisogna abolire gli ordini perché noi siamo due pubblicitari che volevamo fare uno studio associato e non possiamo farlo perché i pubblicitari non hanno un ordine. C'è chi dice invece al contrario, gli ordini servono, ancora hanno un carattere fondamentale, e non fate demagogia anche per abolirli. Ci sono messaggi di chi dice sono figlio di operai e sono riuscito studiando e lavorando a diventare ingegnere, a fare un'impresa con 10 dipendenti, e ci sono altri che dicono invece tenere aperta una piccola impresa contro coloro che l'hanno ereditata e non conoscono la concorrenza è molto difficile. Insomma, l'Italia è spaccata in due da questi temi. Ne abbiamo voluto parlare con libertà, come sempre. A questo punto, finalmente, non sbaglio a dire appuntamento a lunedì, e ringrazio in regia Valeria Rocchetti e Carmelo Lauricelli, e in redazione Gloria Guerrera.